Letture di Radio 24. Il ministro della difesa tedesco Karl Theodor zu Guttenberg pochi giorni fa si è dimesso dal suo incarico per aver copiato la tesi del dottorato. Annalena Benini, su Panorama, racconta chi e come le ha fatto comprendere l'importanza dello studio rispetto alla pratica di copiare. Karl Theodor zu Guttenberg, brillante ministro della difesa del governo Merkel, aristocratico, sposato con una bella discendente del conte Bismarck, grosso nodo alla cravatta e i capelli molto all'indietro, assai dignitosamente si è dimesso. Stanco di essere chiamato Googleberg, stremato dalle accuse sulla tesi di dottorato copiata e probabilmente certo di aver in effetti copiato o commissionato la tesi a un ghostwriter grossolano. Se 76 pagine su 400 non presentano traccia di note a margine, citazioni a piedi pagine, tutte le cosette che nei romanzi si mettono poco e che quindi garantiscono democraticamente a tutti di trovare ispirazione pratica nelle opere altrui senza necessità di ringraziare. Ma una tesi è un'opera scientifica, ce l'hanno insegnato a scuola. Vi ricordate le ricerche prima di internet? Enciclopedie sottolineate e saccheggiate, libri uno sull'altro, lampadine fioche, penne che sbavavano sempre al momento sbagliato. Erano notti meravigliose di puro terrore. Ecco, la scuola. Lì abbiamo cominciato a copiare, ma è anche l'unico posto al mondo dove si possa imparare a non farlo. Durante i compiti in classe di greco, quelli sui verbi, la professoressa, che ancora sogno, esercitava un tale controllo su bigliettini, vocabolari miniaturizzati o tatuati addosso, fotocopie di grammatiche infilate nelle scarpe, messaggi nelle penne biro e piccioni viaggiatori addestrati sull'auristo, che non c'era altra possibilità, per fortuna. Bisognava studiare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La mia professoressa e il ministro copione, di Annalena Benini, da Panorama del 10 marzo. Letture di Radio 24. Un ragazzo cinese muore dopo 72 ore di gioco in un internet point. Non si è nutrito per 3 giorni consecutivi, senza accorgersi del trascorrere del tempo. Ma, come osserva Giulio Giorello su 7, questo fatto non è una ragione valida per condannare in blocco la tecnologia. Il presente è sempre un presente ricordato, come ama dire il premio Nobel Gerald Edelman, ed è la nostra memoria che scandisce lo scorrere del tempo. Non solo è registrazione e rievocazione del passato, ma è pure attesa e previsione del futuro. È ovviamente consapevolezza dell'attimo che fugge. Fisica e psicologica del nostro Novecento ci hanno insegnato che il tempo, però, non passa per tutti allo stesso modo. Come constatava Hans Castorp nel romanzo di Thomas Mann, per coloro che sono stregati dalla montagna magica sopra Davos, 7 anni sono come 7 giorni, al contrario di quel che capita abitualmente alle genti di laggiù, la cui esistenza è regolata dai cronometri di città. Avrebbe fatto la felicità di Einstein. Il tempo può dilatarsi o contrarsi a seconda di come ci lasciamo coinvolgere nel perpetuo fluire di tutte le cose. Il trentenne di Pechino che si è piazzato per 3 giorni a giocare in un internet point, così assorto da dimenticarsi di bere e mangiare, ha conosciuto la contrazione estrema, realizzando da automa il sogno di tanti mistici. La consapevolezza degli istanti che passano può essere così tormentosa che spesso sentiamo prepotente il desiderio di non accorgercene nemmeno, distraendo la nostra mente, come diceva il matematico e filosofo Blaise Pascal, dalle lancette dell'orologio. Il caso dell'ostinato smanettone cinese è certo da compiangere, non dovremmo però stupircene troppo. Da secoli, se non da millenni, si è ricorso alle droghe più esotiche per abolire il tempo e i produttori e i consumatori di quella curiosa droga intellettuale che è la filosofia hanno elaborato le teorie più bizzarre per dirci che il tempo in sé non esiste e che al più è un miraggio della nostra soggettività. Sarà così, ma resta che noi siamo fatti di tempo, anzi, il tempo siamo noi. Dunque non possiamo sperare che il corpo alla fine non ci presenti il conto, riportandoci a quella realtà biologica che solo temporaneamente riusciamo a eludere. Lo sventurato, prima di morire, pare abbia assunto posizioni spaventose. Suona come l'ultima beffa o una crudele punizione del destino. Ma non è necessariamente una ragione per condannare in blocco la tecnologia o magari la filosofia che ha prodotto sofisticati congegni come i computer. Dopotutto ci si può drogare anche di cioccolata, di gazzosa o di sesso. Ma perché farne del tutto a meno? Avete ascoltato la lettura dell'articolo L'attimo troppo fuggente di Giulio Giorello, da 7 di giovedì 3 marzo. Sempre più uomini davanti ai fornelli. Il 43% di loro sfornerebbe i manicaretti per la compagna. Così, mentre il gentil sesso appende il mestolo al chiodo, l'uomo lo raccoglie e cucina, spinto anche dai programmi TV in tema che diventano sempre più unisex. Se i colletti bianchi si mettono il grembiule a scacchi, allora vuol dire proprio che i tempi stanno per cambiare. Lo dicono anche i numeri. In famiglia, gli uomini del bel paese diventano sempre più collaborativi e non disdegnano nemmeno quei lavori casalinghi che i loro padri avrebbero liquidato lapidariamente come cose da donne. Il rapporto Istat sulla coesione sociale fotografa l'immagine di una società in trasformazione, una vera e propria mutazione antropologica della coppia all'italiana, che ridisegna il profilo dei generi, lasciando intravedere un'immagine inedita del maschile e del femminile. È il nuovo che avanza, a condizione però che anche la donna abbia un lavoro che la porti fuori casa, altrimenti rimane tutto come prima, o quasi. I dati parlano di una ridistribuzione dei lavori domestici che in 20 anni hanno raggiunto percentuali che fanno ben sperare. I mariti che apparecchiano la tavola anziché sbaraccarsi davanti alla TV sono passati dal 18% del 1989 al 26% del 2009. Quelli che si occupano delle pulizie di casa sono più che raddoppiati. Erano uno sparuto 14%, adesso sono a quota 30%. Ma lo score più significativo il maschio sostenibile lo realizza tra le pentole. A sfornare manicaretti adesso è il 43%. Non siamo ancora all'intera metà del cielo, ma il tasso di incremento è incoraggiante e fa pensare che di questo passo l'obiettivo verrà raggiunto a breve, anche perché va detto che nessuna attività casalinga compensa oneri con onori quanto la cucina, che ha spesso a che fare con i piaceri più che con i doveri, ragion per cui, dovendo scegliere, viene largamente preferita a lavatrice ed a sedastino, che il sistema immunitario maschile teme tradizionalmente più della peste. Oltretutto oggi la gastronomia è diventata un format dilagante, con una spettacolarizzazione sempre più spinta di tecniche, competenze, cotture, saperi, performance. Come se un principio agonistico, tracimato dallo sport, avesse trasformato i fornelli in un nuovo terreno di competizione, in una continua prova del cuoco, sul modello di chef celebri come calciatori, mentre le donne più emancipate hanno appeso il mestolo al chiodo, lasciando spesso campo libero ai loro compagni e disertando perfino il classico duello all'ultimo sangue con gli irripetibili mangiarini della suocera. Se per le signore prendere il partner per la gola non è più un imperativo della vita coniugale, per gli uomini la seduzione a tavola sta diventando una forma di esibizionismo politically correct, tutto italiano. Così il padre padrone lascia il posto al compagno sommelier. Gli stessi innumerevoli programmi televisivi dedicati al cibo sono diventati unisex e hanno mandato definitivamente in pensione le suor Germana d'Antin. Adesso sono gli uomini a sfidarsi a colpi di paccheri e risotti al salto, di riduzioni al balsamico e di cotture a bassa temperatura. Mentre tradizionalmente il sesso forte preparava il cibo solo in occasioni particolari, come nelle grigliate estive e nei virili barbecue, eredi degli antichi spiedi da cacciatori. Se una volta, insomma, la cucina degli uomini era uno stato d'eccezione gastronomico, adesso i mariti collaborativi si occupano sempre più spesso dell'ordinario. Anche se nel frattempo questo ordinario è diventato un po' speciale, quasi una discesa in campo per contrastare il diktat dietetico salutista di cui le donne, un po' per ragioni estetiche, un po' per educazione alimentare, stanno diventando intransigenti sostenitrici. E così molti maschietti cucinano anche per mettere la partner di fronte al piatto compiuto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il neomaschio seduttore al comando dei fornelli tra paccheri e riso al salto, di Marino Niola, dalla Repubblica di giovedì 3 marzo.